shrafode e ili ke ya sense aken no ni bakorale sho se yo allo allo wala no li anka sho se la moko mani nono na le moko eneko nono nu le moko enweko sho se la moko mani Come on.